Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar, alle 8 e 19 minuti. Caro Talino, come stai? Eccoci qua, caro l'Oscar. Siamo noi, l'avete capito, cari ascoltatori. Siamo noi, Tiedelle, siamo noi, caro Talino. Quelli del pizzino degli incontri. Del grande appalto Consip, lui è di Talino, no, di Talino no, magari, io sono l'Oscar, L di dicendo, me ne sono reso conto, mi scuso. No, in realtà adesso sorridiamo un po', poi dopo dico, guarda che sono arrivate già persone e dicono, è chiaro, T è Tiziano, come Renzi, dovete dirlo, che ne sappiamo, boh, sospettano questo gli inquirenti, ma non lo so, non... io non lo so, tu lo no, sai, io Oscar, non lo so. E aggiungo, siccome ho seguito con una certa all'inizio anch'io, ero con i toni truanti, e poi seguendo negli anni la grande indagine Global Service per cui fu arrestato 75 giorni a Poggio Reale Alfredo Romeo nel 2008 con una sfizza, 12 capi di imputazioni gravissime, associazione a delinquere, corruzione eccetera eccetera, siccome poi dopo 6 anni e migliaia di pagine di giornale in cui veniva dipinto come Barba Blu, alla fine è stato assolto da tutti i capi di imputazione. Ecco, siccome poi accusato di peculato quando gli è stato sottratto la gestione del patrimonio immobiliare di Napoli da De Magistris, è finita che in tribunale il tribunale gli ha detto no, è il comune che ti deve 20 milioni e persino sugli abusi edilizi a casa sua il fascicolo non è più andato avanti. Allora, forte di questi precedenti dico che io il garantismo lo applico a tutti, non è questione di amici nemici, cioè non è il fatto che ci sia indagato anche per traffico di influenze il papà di Renzi che mi fa cambiare idea. Vedremo, naturalmente, piena fiducia nei magistrati eccetera eccetera, però non è che se dice c'è T, L, allora incontri con T, L, il sospetto degli inquirenti che questi T possa essere Tiziano, esatto. Renzi, L, è Luca vero, Lotti, è vero che l'ANAC per tempo, leggetelo, c'è cioè sul sito le osservazioni su le bande di gara della Consip, è vero che l'ANAC aveva avvisato molto per tempo che la dimensione dei valori troppo elevati delle gare della Consip oramai portavano al fatto che le medie imprese non partecipavano più, i piccoli tantomeno, perché siccome per partecipare a un bando di miliardi capisci che devi avere dietro un gruppo che dà garanzie serie, quindi finivano sempre per essere gli stessi a partecipare alle gare e alla fine un po' spartirsele. L'ANAC questo rischio l'aveva messo, diamo atto, a cantone. Comunque, allora, insomma, santi, vediamo bravissimo, i santi, bravissimo. Sì, è un santo che ci riporta a casa Renzi, perché oggi è Sant'Agnese di Boemia, principessa che però diventa francescana e quindi però Sant'Agnese. Poi c'è San Prospero di Como, San Quinto il Taumaturgo, che sembra un nome letterario invece è un bel santo, e tra i tanti che fanno gli anni, ma non ci sono politici, non ci sono giornalisti eccetera, c'è Daniel Craig, che però tutto sommato di tutti questi ultimi protagonisti di 007 era quello che mi ha convinto di più, a dire la verità. C'è anche Lou Reed, ma adesso non ti voglio non voglio evocare Lou Reed, lo so che tu sei sempre lì, andiamo alle sfide a sentire, no, vabbè, di sfide tanto tu tutte le mattine fai sentire oramai Bob Marley, però va bene, non ti dirò che oggi è anche il compleanno persino di Bon Jovi, perché immagino che non sia contemplato nella lista. Ma non è vero, no, vabbè, comunque sì. E io aggiungo che Dio benedica la Camera dei Lords britannica. Io, come ovvio, non sono né monarchico né per privilegi, però quel voto bello in cui ha tutelato i cittadini europei in Gran Bretagna il ceffone alla May, mi è piaciuto tanto, come ti dirò, ma e poi finisco perché andiamo agli argomenti, mi ha lasciato sorpreso in positivo, ecco, vedo arrivare una voce. Ma tu qua chiedi no, io non chiedo niente, no, tu chiedi qua, è Peter è un caro mio, il nostro alpino. Da tanto tempo che è una mediateca di cultura musicale ambulante. Secondo me gli dovrebbero fare condurre una serie di trasmissioni, non una, e gli ascoltatori, secondo me, rimarrebbero senza parole. senti questo. Va bene. E comunque mi ha molto sorpreso il discorso di Trump, ma ha sorpreso tutta la stampa americana, ha sorpreso il mondo. Cioè, Trump, uno cioè, dice, sorpreso positivamente. Sì, perché lo stesso Washington Post è stato pacato, è stato discorso presidenziale. Statista. Non ha offerto critica. Ha fatto un mucchio di proposte per far studiare i bimbi delle minoranze, i latini, eccetera, i malati, i disabili, eccetera. Certo, non si è rimangiato nessuna delle sue proposte, ma con un tono. Ti ripeto, se leggi Washington Post e New York Times, cioè quelli che lo fanno a pezzi abitualmente, dicono però la presa presidenziale inizia a dimostrarsi, per così dire. Comunque, giusto per chi magari non ha letto i giornali, letti distrattamente, non ancora, la questione dell'inchiesta, ricordiamo che è stato arrestato questo Alfredo Romeo. Alfredo Romeo è accusato di corruzione, cioè di avere fatto delle pressioni su un dirigente della Consip, che è la struttura che gestisce tutti gli appalti della pubblica amministrazione, per come dire, pilotare alcuni lotti di un grande appalto, lotti nel senso di lotti, non di ministro, alcuni parti, lotti, porzioni, esatto, e avrebbe promesso per questo anche dei soldi a Tiziano Renzi, cioè il babbo di Matteo Renzi. Avrebbe fatto degli incontri con Luca Lotti, questa volta lotti non Luca. Porzioni ma lotti. Questo è lo scenario, staremo a vedere. Certo che questo possa avere delle ripercussioni politiche, oggi almeno tutti comunque, i giornali ne parlano, ecco, molto, perché l'impatto c'è. Poi abbiamo un candidato ex, uno dei protagonisti del dibattito del PD, che è un magistrato in aspettativa, l'altro protagonista Emiliano, è il ministro della giustizia Orlando, per forza di cose diventa un tema modo, sì. Non voglio dire, perdonatemi, faccio il mio mestiere, non c'è nessun pregiudizio. Vicende come quella del PD di Napoli non aiutano le tessere comprate, come al solito a Napoli, sì, non esatto, so quante volte deve avvenire perché si rendano conto. La vicenda delle tessere comprate a Napoli sembra una di quelle vicende, come dire, già sentite, no? No, esatto, in quello stesso posto, però è fantastico che l'ultimo giorno ci fosse la grande offerta, iscrivetevi, vi diamo 10 euro, una cosa da fin di tutto. Ma io lo dico senza ironia, se può sembrare che sia ironia, però... In ogni caso, il numero per intervenire è 800 24 00 24. Noi vogliamo in realtà approfondire, poi potete intervenire, parlare di tutto, potete anche dirci se siete voi, se sapete chi sono questi T puntato o L puntato. Non ho capito cosa dicevo, se siete voi, ho detto... No, se siete voi potete confessare, se invece sapete chi sono potete dircelo, o se avete dei sospetti. Io temo che sia una mano, lui sta la verità è vera, diciamolo. T perché tutto, perché Meazza e Giannino dicono T Italino, perché il cavalier Berlusconi gli ha chiesto l'ultima rata del closing del Milan, sì, e tu la stai raccogliendo come questo era il sospetto vero che abbiamo con Meazza. Mancano, come c'era una battuta epocale che circolava, mi mancano 20 euro per arrivare ai 100 milioni del closing. 20 eurini che ti mancano, accidentaccio. Esatto. No, in realtà parleremo di vitalizi dei parlamentari, perché ci sono grandi proposte e tante proposte, alcune vengono accusate di essere proposte strampalate, buttate lì, e poi non si fa nulla. Avremo ospite tra poco Roberto Fico. E insomma, i vitalizi poi intercettano quell'idea di un privilegio, di una sorta di pensione. Solo fatto di aver ricordato domenica l'arena di Giletti, che esiste un enorme problema, loro possono dire in Parlamento, ed è vero che al 2012 per il futuro hanno riallineato i trattamenti previdenziali, anche se devi sapere, caro ascoltatore, che l'aliquota anche post riforma 2012 dà un vantaggio di quasi 3 punti al parlamentare rispetto a te, lavoratore comune, però è vero, le hanno molto abbassate, però non vogliono sentirsi dire che gli scandali dei cumuli del passato e delle cifre che si continuano a pagare per il premio 2012, quello loro non vogliono sentire, perché altrimenti Gasparri ha detto che io sono uno da buttare a calci, quello che vuole Gasparri. Per questo le consigliamo di leggere un bel libro, se crede che non sia così. Gasparri, che ragazzi, qua è tutto un intreccio, che non è il Marco Gasparri accusato Gasparri di essere il prototipatore della vicenda Consip Romeo, in questo caso è il senatore Gasparri. Però appunto c'è un giornalista, il direttore del TG4 Mario Giordano, che ha fatto una nuova inchiesta, è diventato un libro in libreria da 2 giorni. Il titolo è molto, molto chiaro: Vampiri, edito da Mondadori. Cioè, Caro Mario Giordano, buongiorno, buongiorno, ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti. Chi sono questi vampiri? Sono quelli che si succhiano delle pensioni e dei vitalizi enormi, no? Certo, sono quelli che continuano a prendere. Io rifiuto il concetto, come diceva Oscar adesso, di passato, perché in realtà lo scandalo del passato è uno scandalo del presente, nel senso è attuale, perché tutti i mesi noi paghiamo la famosa pensione da 90.000 euro. Tutti i mesi noi paghiamo a persone che hanno fatto 2 o 3 anni in Parlamento, 2 o 3 vitalizi, addirittura paghiamo, ci sono alcune persone, elenco nel mio libro, che hanno 2 reversibilità oltre al vitalizio, cioè che sommano il proprio vitalizio più 2 vitalizi di reversibilità della moglie, no, quindi 3 vitalizi di cui 1 proprio e 2 per la moglie. In alcuni casi la pensione personale più 1, 2 o 3 vitalizi, arrivando ad avere 4 pensioni. E questo, ripeto, facendo tutti i nomi e cognomi, perché io cerco di non fare le cose generiche, ma faccio nomi e cognomi con le cifre, eccetera, perché ritengo che questo sia il grande scandalo di oggi. Cioè, nel momento in cui lo Stato manda a un giovane, io dedico il mio libro a una precaria, si chiama Aurora. Però questo io volevo, io per rispetto, ho detto no, prima dell'argomento, avrei voluto dire, prima dell'argomento, però tu, Mario, adesso una mano sulla coscienza, ci dici bene questa Aurora, perché tutti noi abbiamo letto il libro dicendo: chi è Aurora? Chi è davvero nella tua vita, Mario Aurora? Aurora è una persona che io non ho conosciuto la prima volta l'altro giorno in uno studio televisivo, perché me l'hanno comparsa. Pisa, è una parrucchiera che ha 27 anni, lavora da 10 anni e si è vista arrivare nei mesi scorsi le famose buste arancioni dell'INPS, una busta arancione dell'INPS che le dice: devi lavorare fino al 2064, cioè fino a quando avrai 58 anni, l'età vicina agli 80 anni, per prendere una pensione che sarà netta inferiore ai 1.000 euro. Allora io ritengo che uno Stato che manda nello stesso tempo una lettera di questo genere a una giovane dicendo: tu dovrai lavorare 58 anni per avere una pensione di 1.000 euro, quindi ne crei un dannato previdenziale, e nello stesso tempo continua a mandare in pensione, non solo continua a pagare, ma continua a mandare in pensione, perché il 1° settembre 2016, tanto per dire, è andato in pensione un consigliere regionale della Puglia che per 5 anni di lavoro, si fa per dire, prende 5.000 euro netti di pensione a 56 anni. Allora è possibile che contemporaneamente lo Stato mandi la lettera a Rovin in cui gli dice: tu devi lavorare 58 anni, e mandi in pensione uno a 56 anni perché ha lavorato? Secondo me questo non è un problema del passato, è un problema del presente, è il vero problema attuale. Tu fai tanti nomi, ci sono nel libro, ovviamente poi uno si può sbizzarrire, ce n'è uno che va colpito, e tu che anche sulla Verità era stato citato, no, per anche l'entità della pensione, ex funzionario del Senato, che tra l'altro adesso è un dirigente del Ministero dell'Economia, no? Credo. Sì, dice che Antonio Malaschini, che era l'ex sottosegretario del governo Monti, che prende 43.000 euro lordi di pensione, sono 24.000 euro netti, sono 1.500 euro al giorno, ed è stato nominato a settembre vice capo di gabinetto. Non so se le cifre si sono capite, non so se 1.500 euro di pensione al giorno, al giorno. 43.000 euro al mese. Com'è possibile arrivare a maturare una pensione del genere? No, perché è tutto secondo la legge, chiariamolo bene, è tutto a norma di legge. È possibile. La cosa scandalosa è questa, che sono pensioni, tra l'altro, come si dimostra da questo caso, che non riguardano solo i politici, perché io nel mio libro non parlo solo dei vitalizi, che pure sono, come dire, un capitolo corposo, ma ci sono le pensioni, in questo caso, la funzione di un funzionario di Stato. Allora, lui è stato segretario generale del Senato per 10 anni, peraltro nel suo periodo le spese del Senato aumentarono anche a dismisura, ma questo è un altro discorso. E com'è possibile che uno, per aver fatto il funzionario del Senato, maturi una pensione di quel genere? O meglio, andiamo a vedere se davvero quella pensione è parametrata in base ai contributi versati, perché il punto è questo: io non ho niente contro quelli che guadagnano tanto, né contro quelli che prendono pensioni alte perché hanno versato alti contributi, ce l'ho con quelli che prendono pensioni alte perché esistono delle situazioni di privilegio. Ti faccio un altro esempio: il fondo ferroviario. Il fondo ferrovieri è un fondo che ogni anno costa ai contribuenti 4 miliardi di euro, 60 miliardi in 15 anni, e ci sono pensioni, ci sono privilegi nel fondo ferrovieri spaventose, perché cosa è successo? Attenzione, che sono stati creati dei fondi privilegiati. Il caso simbolo è quello del famoso fondo telefonici, a cui appartiene il famosissimo Mauro Sentinelli, che prende 90.000 euro al mese, perché ti sei scandalizzato per 43.000. Giustamente il signor Sentinelli prende 90.000 euro al mese, l'abbiamo detto tante volte, lo ridiciamo perché continua a prenderlo tutti i mesi. Ebbene, questo qua cosa è stato fatto? Sono stati creati dei fondi particolari, no? Finché erano in attivo, perché c'erano tante persone che versavano le proprie pensioni, si prendevano le pensioni con una serie di privilegi che garantivano questi tre. Quando i fondi sono andati in passivo, che cosa hanno fatto? Hanno preso questi fondi e li hanno buttati nel calderone, sì, dell'INPS. E qual è il paradosso di oggi? Che i precari, il fondo precari che è inattivo, perché i precari non prenderanno mai la pensione, ma stanno versando tanti contributi, stanno pagando la pensione alle pensioni d'oggi. No, ma è chiaro, adesso tra l'altro tra poco ci raggiungerà Roberto Fico, no? Perché dicono, ditelo anche il fondo giornalisti, ma oggi sì, Mario Giordano litiga in maniera bonaria con Vittorio Feltri, direttore di Libero, perché Mario Giordano fa anche il nome di Vittorio Feltri, che gode di una pensione, e Vittorio Feltri si è un po' adombrato a dire che male c'è, e quindi voglio dire, è trasversale la questione, non è che sono solo nel mio capitolo Le caste dei vampiri, da pagina 131 in avanti, le storie troveranno noi, i giornalisti, i privilegi dell'INPGI, va bene, anche i giornalisti. L'INPGI è l'ente previdenziale, esatto, la cassa previdenziale per noi. Allora andiamo un attimo in pubblicità, perché ci raggiunge Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, presidente Vigilanza Rai, e per capire anche proprio, concentriamoci sulla questione vitalizi politici, anche se Oscar non è l'unica appunto questione che fa scalpore per gli italiani. 24 mattino, attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar, allora, con noi c'è Mario Giordano, che ha scritto questo Vampiri, tu ti senti un po' un vampiro? Beh, no, io sono un vampirla, al massimo. Ma no, perché? No, io appartengo alla categoria dei fessi, non che dei furbi, guarda, è difficile, mi sono fatto fottere 8 anni di contributi al Partito Repubblicano, pensa poco quanto sono un fesso. Ecco. Perché per orgoglio poi non ho fatto capo, è uno da carcerare per stupidaggine, io sono. No, i vampiri sono coloro che, insomma, si succhiano un bel po' di pensioni d'oro, tra questi immaginario collettivo molti sono i parlamentari, no? Che prendono questi vitalizi. Sui vitalizi c'è una se dici così, guarda, Gasparri, no, ti non li prendono che, più la riforma è tutto risolto, capisci? Ci hanno presi per anni, poi non presi per decenni. Ha ragione Mario Giordano, viva il suo libro, e nel senso che continuiamo e continueremo a pagarli. Leggete l'audizione del maggio 2016 del presidente dell'INPS, che documenta i parlamentari che vogliono dire, ma è tutto finito con la nuova riforma. Guardate per quanti anni farete come in questo 2016, contributi versati da voi 50 milioni, trattamenti erogati 193. Dice, prima il rapporto era 1 euro di contributo, 5 euro di incassato in media con la riforma. Con questa rimarrà 1-2, parole del presidente dell'INPS, non di Giordano, di Giannino. Però è scomodo scriverla, e quindi viva Mario Giordano che la scrive. Con noi c'è il presidente Commissione Vigilanza Rai, Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Fico e ben trovato. Buongiorno. Perché sui vitalizi c'è una battaglia che ci deve aiutare a capire. Intanto ci sono proposte di legge più disparate. Sa che il sospetto è che ci sono talmente tante proposte di legge, eccetera, che alla fine si discute tanto, si fa un gran polverone, ma non se ne farà nulla di modifica. Lei ce l'ha questo sospetto dal di dentro? Sì, il sospetto è giusto, non c'è dubbio, ma è giusto soprattutto perché in questi anni non si è fatto niente. Il Partito Democratico aveva la maggioranza alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, e mentre presentiamo le nostre proposte, lui avanza, il Partito Democratico, altre proposte che già aveva dice presentato, ma che, essendo lui la maggioranza, poteva tranquillamente già votarle, invece non le ha votate. Allora noi presentiamo la nostra, l'abbiamo presentata 2 giorni fa alla Boldrini per farla calendarizzare nell'ufficio di presidenza perché una delibera, e il Partito Democratico continua a dire, ma c'era la nostra proposta Richetti, ma se c'era la proposta Richetti che è stata presentata più di 1 anno e mezzo fa, la approvavano 1 anno e mezzo fa, visto che sono il partito di maggioranza. quindi sono chiacchiere proprio per non fare niente. Non fare niente. Però ecco, ci deve aiutare a capire anche questo scontro verbale con il presidente dell'INPS, Boeri, perché Boeri ha detto che la vostra proposta è scritta in maniera un po' raffazzonata, è scritta male, voi l'avete accusato di aver cambiato idea, com'è la questione? Sì, Boeri in un primo tempo, diciamo così, ha appoggiato la proposta, nel senso dicendo che è una buona proposta, e nel secondo tempo ha detto che era scritta male e così via. Però al di là della polemica con Boeri, la nostra proposta, ve la spiego perché è molto semplice, sì. Diciamo che un parlamentare deve essere deve rispettare le stesse norme di un cittadino italiano, perché nel momento in cui io dopo 4 anni e 6 mesi, vi faccio proprio l'esempio personale, a settembre, dopo 4 anni e 6 mesi di Parlamento, io avrò una pensione a 65 anni di circa 1000 euro. Ora, quale cittadino italiano, dopo 4 anni e 6 mesi di lavoro, a qualsiasi tipo di livello, prende questo. A 65 anni? Nessuno. Quindi la nostra delibera vuole semplicemente dire: il parlamentare, come un cittadino normale, fa il suo anno di lavoro, verse contributi, ma non è che gli valgono per 4 anni e mezzo. No, ma Boeri non critica il principio, ma lo strumento. Dice che ci vuole una legge per cambiare questo, cioè che avete fatto, magari il principio può essere giusto, ma avete utilizzato uno strumento sbagliato. Ecco. No, questo non è vero, perché infatti la Presidente della Camera accetta la delibera che noi abbiamo presentato, anche perché poi gli altri cambi rispetto alle versioni furono fatte proprio in ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, e quindi con delibera. Sì. Se poi dobbiamo parlare di una legge organica grande che tocchi anche vitalizi, quelli pregressi, come scrive Giordano nel suo libro, allora senza dubbio ci vuole una legge dello Stato, è meglio perché è più organica. So, Mario Giordano, ma la pensione, effettivamente avere la pensione a 65 anni anche solo di 1000 euro, ma per una legislatura, è un privilegio che sì, è abbastanza chiaro, no? Che sono due cose, lo diceva adesso l'onorevole Fico, due questioni entrambe importanti. Una è quella del vitalizio o pensione che è stata cambiata per i parlamentari, ma che non è stata ancora cambiata abbastanza, perché come dicevi tu adesso 4 anni, 6 mesi e un giorno per avere una pensione da 1000 euro è una cosa che è ancora una diversità, cioè io credo e sono perfettamente d'accordo su questo che i parlamentari debbano essere come tutti gli altri cittadini, quindi se uno di noi cambia un lavoro, va a fare un altro lavoro, somma la propria storia previdenziale, i contributi, e poi avrà alla fine una pensione in base ai contributi che ha versato. Se uno a un certo punto della sua attività professionale, anziché andare a fare l'idraulico come metalmeccanico, va a fare il parlamentare, esattamente come tutti gli altri, somma quei contributi nella sua storia previdenziale, e quando avrà diritto, come tutti, la pensione, avrà i contributi versati nella sua pensione. Quindi questa, diciamo, è una cosa. È stato fatto un passo, è vero, in questi parlamentari hanno ragione, non ci sono più, ma perché è stato fatto un passo? Perché da tanti anni, io, tu, Giannino e tanti altri, ci stiamo indignando, incazzando, facendo battaglie, quindi è stato fatto un primo passo, bisogna fare un altro. Poi c'è il secondo tema, che è quello dei vitalizi attuali, che ripeto, si ripete, io mi rifiuto di parlare del passato, esatto. che pesano sul macigno sul presente, e quello secondo me urge intervenire con un secondo tipo di intervento, certo, ancora più rilevante, che non riguarda solo vitalizi ma tutte le pensioni d'oro, esatto, e che richiede una legge organica. Io credo che gli strumenti tecnici ci siano, le proposte di legge ci sono, i vari strumenti nel libro li elenco, ce ne sono diversi. Quello che manca è una nuova scossa di indignazione forte, io so che fa incazzare sentire che uno prende 1500 euro al giorno di pensione, 43.000 euro, quello, e quindi la tentazione della gente è dire vabbè, l'ho capito, che te lo fa, ormai mi sono rassegnato. Io credo che non ci si debba rassegnare, ci si debba riindignare per arrivare a questa legge. Siccome la volta scorsa ci siamo riusciti a fare un passettino, l'abbiamo fatto, non è vero che non serve a niente. No, sono d'accordo, allora, e non mi fanno paura gli insulti di Gasparri, ma detto questo, per esempio, anche perché poi basta andare a vedere nel mondo, in Germania c'è il divieto di cumulo di vitalizi derivanti da incarichi elettivi. Quindi tu sei stato 8 anni nell'equivalente della regione, solo che quello è un equivalente che funziona davvero in Holland, e poi vai al Bundestag, lo scegli qual è il regime che ti conviene di più, ma scegli quello. E comunque, dice la legge federale tedesca, il massimo, anche se con 27 anni di contribuzione in incarichi elettivi in Germania, è di 5.800 euro, caro Alessandro e caro. Allora, come vedi, in altri ordinamenti l'idea di non creare pensioni monster da accumuli di gestioni che moltiplicano rispetto ai tuoi contributi poi l'assegno reale, c'è il limite massimo. In Gran Bretagna i deputati hanno tre diversi regimi contributivi, possono scegliere tra diversi regimi contributivi, anche lì c'è un massimo ed è bassissimo, oltre i quali non ti conviene più versare perché tanto non te la danno la pensione. Abbiamo fatto delle leggi, ecco, che noi abbiamo il presidente della Consob attuale, anch'esso citato da Mario Giordano nel suo libro, pagina 60, che è stato 17 anni funzionario del Senato, che pensione con ipermoltiplicatori, no? Come si ricordava prima anche con Malaschini. Dopodiché è stato 16 anni in Parlamento, cumulerà tutto, attualmente pure presidente della Consob, quindi si prende anche oltre 20.000 euro al mese come presidente della Consob, capisci che è così. Io vorrei capire da Roberto Fico se davvero esistono dei parlamentari, secondo lei, che puntano al famoso 15 settembre, tirare avanti la legislatura per maturare quel vitalizio. Perché molti di questi parlamentari giovani dicono: ma se, sentite, io che ne so, ho 30 anni, secondo voi mi sputtano per far passare l'idea che tra 30 anni, o meglio 35, cioè 65, prenderò 1.000 euro? Davvero c'è questa ambizione? Non posso entrare nella testa di ogni parlamentare, però vi dico e le dico che in ufficio, nella capigruppo della Camera dei Deputati di ieri, la legge elettorale è stata calendarizzata a fine marzo, quando doveva essere calendarizzata in aula alla fine di febbraio, e abbiamo perso un altro mese, ove finita l'analisi nella commissione competente. Mentre prima si correva per cercare di uniformare, come ha detto il capo dello Stato Mattarella, la legge elettorale della Camera con quella del Senato, oggi si fa melina, e chi fa melina è proprio il Partito Democratico. E questa cosa porterà non alle elezioni a giugno, ma sicuro non alle elezioni prima di settembre, e a settembre scatterà il sistema pensionistico dei parlamentari. Sì. Tutto qui. Poi ognuno qua può fare le proprie analisi. Sì, ognuno dice, può ragionare e dire. Giannino diceva una cosa molto sensata. Uno degli scandali più grandi in Italia, dove noi abbiamo cercato di mettere mano presentando leggi e atti parlamentari, è proprio il cumulo dei vitalizi. Esatto. Nel nostro paese è stato uno scandalo, ed è uno scandalo enorme. Non è possibile che se tu fai il parlamentare, poi fai il consigliere regionale, accumuli vitalizi diventando una persona praticamente con una pensione a vita, ma d'oro, davvero d'oro. Sì. E quando il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, me lo ricordo perfettamente quel giorno, abbiamo presentato la mozione per ridurre le pensioni d'oro e trasferire quella riduzione alle pensioni minime irrisorie, per farle salire da 512 euro a 780 euro al mese, il Partito Democratico votò no. Quindi su questo argomento noi abbiamo fatto di tutto in questi 4 anni. Io vorrei capire, Giordano, ma qui da cronista che ne ha viste tante, ma si metterà mano davvero a questa cosa del vitalizio, anche delle pensioni d'oro, alla fine o no? Perché in Parlamento si vedono tanti litigi, tante questioni, fate nostra la proposta che abbiamo fatto, no, fatela voi la nostra, no, l'abbiamo fatta prima noi, e poi boh. Ma come dire, il percorso è sempre difficile, perché non si è mai visto nessun tacchino che va veloce verso il Natanoa, quindi come è noto, quindi è chiaro che il percorso è lì. Però ripeto, io non sono neanche, e non scherzo, no, non mi metterei a scrivere libri, a prendermi come Oscar Giannino gli insulti, gli rimbrotti da tutti quanti, se non fossi convinto che si possa cambiare, e che si possa cambiare sia con una legge organica complessiva, ma anche con i provvedimenti immediati, perché per esempio quello del doppio vitalizio in una regione, la Toscana, è già stata fatta. Esatto. Cioè dal gennaio 2016, esatto, il doppio vitalizio non viene più percepito. Allora perché, per esempio, se l'ha fatto tutte le regioni nel 2013 erano d'accordo nel fa, poi l'ha fatto solo la Toscana, perché nelle altre regioni invece il doppio vitalizio? Perché per esempio in Sicilia, tanto per dire, dove esistono scandali, ci sono queste possibilità che passano i figli. Bravo, come quello che durano da 66 anni. Cioè noi paghiamo ancora il vitalizio alla signora Anna Maria Cacciola perché suo padre è stato parlamentare monarchico fra il 48 e il 51, per 48 mesi di deputato monarchico noi paghiamo il vitalizio dal 51, cioè da 66 anni, prima suo padre e poi alla figlia. Ecco, allora io dico, ci sono delle cose che nell'attesa della legge generale, che io ho fiducia che possa arrivare, che si possono fare anche domani mattina se si vuole, cioè, il problema è la volontà però chi la smuove, Alessandro? La smuoviamo anche noi facendo casino, indignandoci e facendo e mobilitando la gente, perché è cambiato, non è vero che non è cambiato nulla in questi anni con tutte queste battaglie. Benissimo. Qualcosa è cambiato, sì, io non sto al dire non cambia mai nulla, non è vero. No, ma è chiaro. Sì, io vi assicuro che in Parlamento la nostra battaglia su queste questioni la stiamo facendo da molto, e vi voglio ricordare, ma voglio ricordare anche a chi ci ascolta, che prima nella storia d'Italia abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali che sono pari a 42 milioni di euro. Abbiamo ridotto i nostri stipendi del 50%, rendicontiamo tutte le nostre spese e quello che non spendiamo lo restituiamo al fondo per il microcredito, che ha finanziato tante piccole nuove attività creando molti posti di lavoro. Quindi qui, quando noi parliamo, io sto parlando in questo momento di eliminare la pensione così costruita per i parlamentari, io sono coerente perché tutte le azioni che abbiamo fatto vanno in questo senso. Fico, le vogliamo fare una domanda sulla RAI, visto che lei è presidente della Commissione di Vigilanza, oggi scrive anche una lettera al Corriere della Sera. Ma io non ho capito, ma lei personalmente è favorevole a questo tetto da 240.000 euro per tutti? Per tutti, cioè star, anche per, comprese, anche esterni, per chi, artisti. Carlo Conti che fa 50% di share, è favorevole o no? Sì, io sono favorevole. È favorevole. Voglio che questo tetto sia applicato come ha fatto giustamente, e su questo faccio un plauso e complimenti al Consiglio di Amministrazione della RAI, che ha deliberato il tetto a 2,40 anche per contratti che non siano quelli strettamente legati interni RAI e da aprile. E così non vedremo, si depotenzia la RAI, dice se le grandi star se ne vanno. Proprio oggi c'è una mia lettera su questa questione sul Corriere della Sera. Secondo me non si depotenzia perché si potrebbe invece favorire l'uscita di risorse interne, l'uscita di un nuovo giornalismo, potrebbe anche liberare risorse perché... Si va meno sul cosiddetto sicuro, sempre quello, sempre uguale. Sicuro garantito. Il sicuro garantito. Allora si può anche sperimentare di più. È vero che la RAI, però io dico che la riforma della RAI, quella anche che abbiamo scritto noi, che poi è stata bocciata in parte dal PD, ma poi fu preso invece il nostro piano trasparenza, che oggi ha avuto i suoi effetti, come si vede all'interno del RAI, perché tutti i curriculum e gli stipendi dei dirigenti sono pubblicati sul sito della RAI, mentre non era mai stato fatto negli anni passati, quindi è una grande vittoria della Commissione, del Parlamento, anche del Movimento. E possiamo andare avanti su questa strada, perché se tu riformi tutti i settori, allora possiamo parlare anche degli stipendi, possiamo parlare dei contenuti, possiamo parlare del servizio pubblico, come deve essere finanziato, se anche la pubblicità si può partire da lì. Si fermi qui però, Fico, perché altrimenti sforiamo. Comunque grazie, e io voglio ringraziare con particolare calore, affetto e amicizia Mario Giordano per il libro che scrive. Ricordiamo l'ultimo, Vampiri, edito da Mondadori, potete trovarlo dedicato ad Aurora. Vabbè, esatto. Io ci ho creduto fino a un certo punto. Ringraziamo lui e Roberto Fico, Movimento 5 Stelle, Presidente Vigilanza RAI. Ci fermiamo e ci troviamo domani. Caro Talino! Caro l'Oscar, confessa, sei tu. I soldi andiamo a contare.